Menuzzo, menuzzo, che la notte che nascesti, che lo rito che patiste, alle sedie di domande già stavano tutte le sante, e le sante piccoline che giocavano alle nocere, e le sante piccole e grandi che giocavano alle castagne. Le castagne rosse e fiori facevano la festa a Nostro Signore. Nostro Signore ci ha promesso che andiamo a in paradiso. Paradiso è bella cosa, che non si occupa di non c'è riposo. E rompere di male la gente che dopo che bacia non c'è ripente, che Dio lo ripentire che dopo che bacia non può nascere.